Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Francesco Zonin, il vino di famiglia, di Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa che raccontiamo oggi inizia davvero da molto lontano, dal 1800 e da un'attività di famiglia che era legata alla terra e alla coltivazione della vite. Dopo la Prima Guerra Mondiale diventa Casa Vinicola. Oggi è la più importante azienda vitivinicola privata italiana, con un fatturato che supera i 150 milioni di euro ed esporta in tutto il mondo. Chi guida l'azienda ha sempre lo stesso nome. Oggi il presidente è il cavaliere del lavoro Gianni Zonin, affiancato dai tre figli Domenico, Michele e Francesco. La nostra famiglia si lega alla viticoltura in Italia nel 1821. Per circa 100 anni, anzi per esattamente 100 anni, è rimasto il nostro business di famiglia, però non ho mai visto uno sviluppo al di là del territorio in cui eravamo, che è il paese di Gambellara, fra Vicenza e Verona. E poi nel 1921, quindi dopo la Grande Guerra, per merito del mio prozio Domenico Zonin, questa attività di famiglia, questa passione per la viticoltura è diventata anche un business, è diventata l'azienda, è diventata quello che poi è stata fondata nel 1921, la Casa Vinicola Zonin. Il prozio, fondatore dell'azienda, è un ragazzo del 99 che nel primo dopoguerra fa partire e poi sviluppa l'attività, prima in un ambito territoriale limitato, successivamente in tutta Italia e poi inizia a guardare all'estero. Intanto in azienda arriva Gianni Zonin. Era il primo dopoguerra e quindi il mio prozio, tra l'altro, è un ragazzo del 99, quindi una persona che ha visto molto da vicino la guerra, come tanti altri italiani. In un paese, l'Italia è un paese gambellare che offriva veramente poco, si è rimboccato le maniche e ha cominciato questa attività. Attività che all'inizio era un'attività che si svolgeva tra le province di Vicenza e di Verona. E poi tra gli anni 30-40 la distribuzione si è allargata nel nord Italia, poi nel centro Italia, poi è diventato un brand nazionale e poi negli anni 60 sempre più internazionale. Mio prozio era sposato, ma non aveva figli, mentre mio padre era il primo di 8 fratelli. In azienda insieme a mio prozio lavorava anche mio nonno, per cui mio padre fu adottato, si può dire, dal mio prozio, quindi andò a vivere con lui e seguì le sue orme e l'inclinazione dello zio, andò a studiare enologia. Studiò enologia anche se la madre avrebbe voluto che facesse il liceo classico per poi laurearsi in legge, e sarebbe stato il sogno della madre, quindi di mia nonna. Mio padre arrivò in azienda nel 57, quindi aveva 19 anni, subito dopo gli studi in enologia. Dopo 10 anni fu eletto presidente, o nominato presidente dal prozio, e diciamo che nel 67 possiamo già mettere la parola fine alla prima fase di vita della nostra azienda. E dopo la prima fase arriva negli anni 70, proprio con Gianni Zonin, la seconda. Qualcosa di diverso è stato soprattutto opera di mio padre per due motivi. Il primo fu quello di far diventare il brand Zonin un brand di riferimento in Italia. Il secondo è aver previsto l'evoluzione che avrebbe avuto il mondo del vino italiano nei decenni successivi, per cui nel 1970 decise di uscire dalla propria regione d'origine, e che all'epoca era una scelta estremamente diversa e quasi all'avanguardia, e andò in un territorio diverso che era quello del Friuli a produrre grandi vini bianchi. Questa sua idea di mettere sotto un ombrello i terroir più importanti d'Italia, più rappresentativi, è poi l'idea che lo ha seguito nei futuri 30 anni, per cui dal 1970 al 2000 mio padre andò in Friuli, nella zona del Chianti Classico con l'acquisizione di Castello d'Albola, nell'80 sempre in Toscana ma a San Gimignano con l'abbazia di Monteoliveto, nell'85 in Piemonte con Castello del Poggio, nell'87 in Oltrepoco la Tenuta del Bosco. Una piccola pausa di riflessione anche per rifiatare, poi nel 97 arrivò l'acquisizione molto importante per noi del Feudo Principi di Butera in Sicilia, nel 99 Rocca di Montemassi nella Maremma Toscana, per chiudere nel 2000 con Masseria Altemura inaugurata proprio l'ottobre scorso nel Salento. Oggi molti viticoltori vanno fuori regione. Più di 40 anni fa la scelta non era così scontata. Chi lo conosce sa che mio padre è così. lui vive un po' nel futuro, ma non nel senso come ce lo possiamo immaginare. Io credo abbia una capacità di vedere nel futuro o le evoluzioni del mercato e quindi anticiparle. E per noi è fondamentale, perché nel vino bisogna giocare l'anticipo. Il vino è legato alla terra, è legato alla logica della natura, si vendemmia una volta all'anno, per cui non si possono restringere, accorciare i tempi. Per cui se si vuole fare viticoltura in un territorio bisogna arrivare un po' prima. Oggi fanno parte dell'azienda circa 200.000 ettari di vigne su 9 tenute, dislocate in 7 regioni italiane. E la terza tappa di vita dell'azienda è quella che guarda all'estero e parte negli anni 2000. Noi abbiamo cambiato il modo anche di vedere l'export, diciamo alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, per cui se facciamo la terza tappa di vita della nostra azienda, che parte dal 1921 fino alla fine degli anni 60, dagli anni 70 al 2000 ci sono stati 30 anni in cui abbiamo messo in piedi, ho messo sotto il nostro cappello quello che è oggi il più esteso vigneto e più rappresentativo in Italia. Negli anni 2000 abbiamo cominciato a cercare di immaginarci anche lì come sarebbe stato lo sviluppo all'estero della nostra azienda e del portafoglio che oggi rappresentava, con 9 tenute che rappresentano 9 terroir unici in Italia. Abbiamo cominciato dai paesi più importanti, quindi dove l'Italia ha sempre giocato un ruolo principale, come l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Germania. Oggi abbiamo una presenza diretta in tutti questi mercati. In Inghilterra e negli Stati Uniti abbiamo una società controllata, in Inghilterra la Casa Vinicola Zonin in UK, che importa e distribuisce il nostro portafoglio, e negli Stati Uniti la Casa Vinicola Zonin USA, che importa i vini di tutte le nostre tenute. Ci muoviamo oggi su 102 paesi. Abbiamo da poco acquistato delle quote di un nostro importatore in Giappone, stiamo guardando molto da vicino il Brasile perché ci interessa. Il 70% della produzione è attualmente esportato in oltre 100 paesi e oltre allo sviluppo verso nuovi paesi, secondo Francesco Zonin, le possibilità di sviluppo ci sono anche in Italia. L'Italia è il paese in cui abbiamo investito di più e continuiamo a farlo, perché se la nostra scelta è creare questo portafoglio o di farlo diventare sempre più rappresentativo veramente di tutto il potenziale che c'è in Italia, e le nostre scelte lo hanno dimostrato in passato e continuano a dimostrarlo adesso. Io vedo sempre due italiani, vedo l'italiano che è in Italia e vedo l'italiano che è all'estero, e ogni tanto mi piacerebbe vedere più italiani in Italia che ragionano come gli italiani all'estero. L'italiano all'estero è un popolo meraviglioso, dove l'accoglienza e l'ospitalità credo non abbia secondi da nessuna parte. I ristoratori italiani nel mondo credo abbiano fatto più di qualunque altra categoria loro simile in altri paesi, hanno fatto tantissimo per il vino italiano, credo che tantissimo del merito sia loro, e continuano a farlo. Dico sempre che quando trovi gli italiani all'estero, guai a parlare male dell'Italia, perché la difendo una spada tratta col coltello tra i denti. Poi c'è l'italiano che vive in Italia, dove ci piace un po' parlarci addosso o autocriticarci molto. Io vivo in una regione che è quella del Veneto, dove c'è questa area di imprenditorialità diffusa e che rispecchia molto la nostra filosofia e credo ci aiuti a cercare di migliorarci sempre. Non ci manca nulla. Per fortuna abbiamo anche tanta buona volontà. Ecco, l'augurio anche visto di questi tempi è che ci diano la possibilità di lavorare bene come gli italiani sanno fare. Io credo che l'Italia oggi non stia chiedendo nient'altro che la possibilità di fare bene quello che è sempre stata in grado di fare. Secondo dati recenti dell'Osservatorio sulle imprese familiari della Bocconi, oltre la metà delle imprese italiane del settore vitivinicolo con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro sono controllate dalla famiglia proprietaria, e nel decennio 2001-2011 hanno incrementato i ricavi dell'86%. Quello del vino risulta essere in particolare un settore dove l'impresa familiare funziona. Credo che il termine azienda di famiglia e azienda vitivinicola non poteva avere un connubio migliore. Una delle risposte più semplici è data solamente dal tempo. Il mondo del vino è un mondo che ha dei tempi lunghissimi, che scavalcano spessissimo le generazioni. Io so già che il prossimo vigneto che pianteremo a Masseria Altemura probabilmente sarà ancora in produzione quando mio figlio entrerà in azienda. E questo dà una continuità al nostro lavoro, dà una continuità all'azienda, dà una continuità ai consumatori, dà una continuità ai collaboratori, perché un'azienda familiare ha la capacità di vedere nel lungo termine. E questo quando si fanno scelte strategiche anche importanti, non solo nel modello di business, ma anche nel come viverla questa azienda, credo che sia estremamente importante. Per noi, per tantissimi nostri collaboratori che trovano uno stile anche familiare nel modo di lavorare quotidianamente, perché poi l'azienda è vero, è fatta dall'imprenditore, è fatta dal prodotto, ma è soprattutto fatta dai collaboratori, per cui se questo stile familiare, se questo nucleo familiare si riesce ad allargare anche a tutti i collaboratori, credo che l'azienda ne guadagni molto e ne guadagni in tanti modi. Oggi i tre fratelli Zonin sono in azienda con il ruolo di vicepresidenti, dopo alcune esperienze lavorative all'estero in altre aziende, anche nel settore del vino. Francesco segue il settore commerciale e marketing, Domenico l'area tecnica e produttiva, Michele cura l'area financial controlling. Quello che è successo a me, quello che è successo ai miei fratelli, perché hanno fatto più o meno lo stesso percorso, siamo partiti fuori dall'azienda, abbiamo annusato un po' il mondo, abbiamo un po' vissuto il mondo del vino, ma non all'interno delle nostre aziende. E poi come si fa a non amare il vino, la terra o quello che ti offre? Perché ogni tanto vado a Castello d'Albola, ti metti davanti una collina del Chianti, magari a degustare un ottimo Chianti classico, e poi frate te e pensi, ecco, io adesso sto lavorando. Poi quando mi mostreranno un lavoro più bello di questo, magari ci ripenserò. Verso il futuro, l'azienda e la famiglia Zonin guardano con ottimismo. Guarda, io credo che un imprenditore senza l'ottimismo non è neanche più un imprenditore. Ma non è uno sforzo. Io la vivo così perché mio padre mi ha insegnato a viverla così e perché lo vedo ogni giorno in quello che fa, e in quello che dice e negli occhi che ha e quello che esprime. Io lo respiro quotidianamente e ormai fa parte di noi e credo sia un plus e sia anche una fortuna. Perché vivere con ottimismo anche in momenti estremamente difficili, perché poi non possiamo neanche nasconderci dietro un dito, oggi lavorare in Italia non è facile, è un mercato complicato, però è un mercato di un paese ancora ricco, dove il vino fa parte della nostra cultura da più di 2000 anni, ed è il paese che sta portando questa cultura in giro per il mondo. Non dimentichiamoci che noi siamo 60 milioni di abitanti, 60 milioni di persone che sono l'invidia di 6 miliardi di persone, per quello dico che dovremmo avere un po' più di orgoglio nazionale. Abbiamo fatto tanto, abbiamo tanto da insegnare, abbiamo insegnato tanto, l'enologia italiana sta facendo scuola nel mondo, la cucina italiana sta facendo scuola nel mondo, abbiamo il 70% del patrimonio artistico mondiale, siamo una penisola dove qualunque spiaggia è una meraviglia, abbiamo 600 vitigni autoctoni, abbiamo tutto quello che vogliamo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.